Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, oggi appuntamento sdoppiato, la parte iniziale a chiudere e a sintetizzare il bilancio di questa doppia serata di Coppa, la seconda parte, dopo le informazioni dai mercati, dopo le 14.30, a proiettarci sulla giornata di campionato e in particolare sulla doppia sfida al vertice Inter-Napoli sabato sera e Juventus-Milan la sera di domenica. Allora, cominciamo da Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Dunque, non è difficile in fondo far vincere le italiane, no? È bastato ricordare due giorni fa, esattamente a quest'ora, il bilancio dell'anno solare e queste sono scatenate nel 3-3. Cosa che, tra l'altro, e adesso ti lascio subito la parola, cosa che non è ancora accaduta in questa edizione di Champions, in questa nuova, a nessuna altra nazione di fare l'amplen con tutte vittorie. Esatto, devo dire che era un po' nell'aria, nel senso che poi in tutta sincerità gli avversari e gli ostacoli di questa seconda giornata non erano altissimi per le italiane, però si è capito subito che l'aria stava tirando dal verso giusto quando ha segnato Wagner Love, nel senso che in quel momento un Inter un po' titubante avrebbe magari anche rischiato di perdere, e invece l'Inter ha segnato subito con Zárate. Il vento è girato poi benissimo con la partita del Napoli, che ha dimostrato due cose: intanto di essere sulla strada giusta per avere una buona caratura europea, anche se poi la vera asticella arriva adesso con la doppia sfida col Bayern, e che il Villarreal tutto sommato si dovrà accontentare, credo, del quarto posto di questo girone. E poi, sinceramente, poi il 3-3 è diventato abbastanza agevole, perché pensare che il Vittoria Pölten resistesse 90 minuti, secondo me era davvero un coniglio da pescare nel cilindro, perché sinceramente il Milan, che pur voglio dire non è che l'abbia, non è che sia andato a valanga, però no. Normalmente il Milan contro il Vittoria vince. Questo non accade, ad esempio, pare non accadeva tantissimo, ed eravamo con uno score pesantissimo, perché avevamo ricordato le 9 sconfitte, la vittoria, tanto curioso, perché l'ultima vittoria era un 3-2 a Monaco, e questa volta è stato un 3-2 a Mosca, e il gol del 3-2 a Monaco lo segnò Pandev, cioè un ex giocatore della Lazio, Mosca l'ha fatto Zárate, anche lì un ex giocatore della Lazio, e in entrambi i casi non è che si siano lasciati benissimo con Lotito. Quindi, sinceramente, pensare di far peggio No, e quindi un po' l'abbiamo chiamata, e ogni tanto quando le chiamiamo arrivano anche. Sì. Senti, l'Amplein l'han fatto, l'Amplein per nazione, l'abbiamo detto, l'ha fatto finora soltanto l'Italia alla seconda giornata. L'Amplein, nel senso di punteggio pieno, riguarda tre squadre sole, che sono Bayern, Real e Marsiglia. Io farei una piccolissima analisi individuale, partendo secondo me dal Marsiglia, che di queste tre è la più sorprendente. No, è la più sorprendente soprattutto per il rendimento in campionato, perché mentre il Real comunque ha in maniera alternata, nel senso che il Real in campionato o schiaccia tutto e tutti o va in difficoltà, e un paio di volte è andata in difficoltà e una volta ha pure perso. Ecco, quando il Real perde vuol dire che è successo qualcosa di strano, quindi diciamo che il Real e Bayern hanno fatto il loro. No, il Marsiglia più che altro ha iniziato non vincendo alcuna partita nella Ligue 1 e soprattutto, devo dire, ha evidenziato un Borussia Dortmund francamente impresentabile, onestamente ieri sera, avendo visto sprazzi, non tutta la partita, ce n'erano tante, a me è sembrato che questa squadra fosse capitata lì per caso, andando poi a dare un'occhiata sia ai siti internazionali, che ho visto che soltanto il portiere ha preso un voto accettabile, ma tutto il resto è tra il 4 e il 4,5, e in Germania sono stati anche abbastanza duri, quindi sinceramente il Borussia di Dortmund, che in campionato farà molta fatica a riconfermarsi, è andato incontro a una sconfitta veramente pesante. Devo anche dirti che pensare che il Marsiglia continuasse a non prenderla mai, forse no, io non penso che il Marsiglia si sia completamente imbrocchito, e quindi onestamente prima o poi mi aspettavo che potesse dare un colpo. Oltretutto nel girone suo, per adesso il suo l'ha fatto, perché sta in un girone comunque difficile, dove non è favorita, sta contro i campioni di Germania, contro una squadra come l'Arsenal, che agli ottavi anche con questa squadra ci può andare. E quindi sinceramente non è un girone facile, che è una seconda, terza forza. Diciamo che se il Marsiglia è la sorpresa, perlomeno a questo livello, finora, dopo due giornate, una conferma, al di là delle previsioni più rose, è il Bayern, considerando anche il rendimento di campionato. Mi scrive per esempio Bruno Lofredo di Arezzo e sollecita una tua opinione non solo sui 31 gol fatti finora in stagione dal Bayern, che ha perso soltanto una partita all'esordio in Bundes col Borussia di Mönchengladbach e poi ha sempre vinto, ma su un solo gol subito sino ad ora. 7 di agosto, Gigi, quindi stiamo parlando di un bel po'. Un bel po' fa, e da lì in poi è diventato un percorso netto, tra l'altro con grande autorevolezza, con anche finalmente, io credo che la vera grande notizia sia l'essersi abbastanza liberati della dipendenza di Arjen Robben, cioè con Robben in campo il Bayern di Monaco è sempre stato un'altra cosa, ora lo è anche senza di lui. Lo è al punto che forse è stato più Robben a non voler giocare l'altra sera piuttosto che l'allenatore Heinkens, e io credo che il Bayern di Monaco faccia sincera paura in questo momento. Bisogna vedere come loro hanno impostato la loro stagione, perché loro hanno la finale in casa e quindi ci puntano tantissimo. Certo. Hanno una pausa lunga, ma non è più così lunga a Natale, e ovviamente devono vincere il campionato, perché per loro, cioè già il fatto di dover passare da un preliminare ai Champions League per loro è stata quasi un'umiliazione. E quindi io credo che li troveremo molto avanti e che saranno molto duri da battere. Resta il fatto che tutto quello che diciamo adesso conta veramente poco, perché sono veramente due competizioni diverse. Quando sì. Mazzarri e De Laurentiis parlano di preferire la Champions, io la interpreto così, cioè l'orizzonte temporale di questa Champions è un orizzonte che arriva a dicembre, quindi tu puoi anche considerarla in questo momento una priorità rispetto al campionato, che invece ha un arco talmente lungo, va fino a maggio, che tutto sommato puoi anche ogni tanto zoppicare in campionato, ma in Champions dalla seconda partita in poi non puoi più sbagliare. Tra tre settimane, nel frattempo ci sentiamo evidentemente per i campionati, tra tre settimane l'appuntamento sul martedì, mercoledì e giovedì per la terza giornata. Grazie a Fabio Tavelli. Grazie Gigi, un saluto a tutti. Buon pomeriggio, tra poco ci abbiamo ereditato però da Sky Sport 24 un filmato breve ma prezioso di Mancini su Tevez, quello che vi ho promesso ieri e che ne evoca un altro, ne richiama un altro che ascolteremo subito dopo in rapida successione. Tra gli strascichi di questa doppia serata di Coppa, indubbiamente il caso Tevez, che è stato già sospeso per 2 settimane dalla società, dal Manchester City, ma potrebbe essere l'inizio della fine del rapporto. Sentiamo che cosa ha detto al microfono Mancini a proposito del rifiuto di Tevez a entrare in campo sullo 0-2 sul campo del Bayern. If one player earns a lot of money, play for Manchester City in a Champions League e has this behavior, for me he can play. Never. Con me ha chiuso un giocatore che guadagna tutti quei soldi, che indossa la maglia del Manchester City e che si rifiuta di entrare in campo, con me ha davvero finito. Mancini ha dei momenti duri da tecnico, no? E questo infatti ha ricordato il famoso sfogo del 2008, quando subito dopo la sconfitta interna a San Siro. Proviamo a risentire quel frammento di allora. Solo per dire che nonostante io abbia un contratto di 4 anni con l'Inter ancora, credo che per me questi saranno gli ultimi 2 mesi e mezzo da allenatore dell'Inter, e questo l'ho detto ai ragazzi, lo dico anche pubblicamente, così non c'è nessun tipo di problema, perché sennò poi dopo verrebbe fuori, e spero che questi ultimi 2 mesi e mezzo siano 2 mesi e mezzo importanti, che ci consentano di rivincere lo scudetto e di vincere la Coppa Italia. Sono due situazioni molto diverse, evidentemente in questo caso ce l'ha con in questo caso era uno sfogo come dire complessivo dovuto a una sconfitta e un'eliminazione, in quello del City non è, l'eliminazione non c'è ancora ed era con un giocatore, ma insomma è per dire che Mancini è un allenatore che anche lui si rifugia come tutti, no? nei luoghi comuni per sopravvivere spesso o forse nella maggior parte dei casi nella banalizzazione inevitabile quando ogni giorno ti piazzano un microfono, anzi tanti microfoni sotto la bocca, ma poi ogni tanto quando è ora non le manda a dire. Qualche intervento da parte vostra, per esempio Alessandro da Milano, buongiorno. Buongiorno dottore. Dica. Mi perdonerà l'emozione. Adesso, in questo periodo, da buon tifoso del Napoli, ma non solo, innamorato del calcio in generale, dello sport, volevo un attimino sottolineare il pregevole lavoro del gruppo tecnico della squadra che seguo, cioè il Napoli, considerando gli infortuni, che sono veramente ridotti al minimo termine da tre stagioni a questa parte. Quindi forse qualche considerazione sul turnover andrebbe rivista un attimino qua alla luce dei numeri, confrontando magari quelli che ha il Napoli e quelli che ha avuto in passato e anche in presente le altre squadre con cui fortunatamente per ora riusciamo a batterci, ecco. E niente, non voglio rubarle troppo tempo. No, grazie Alessandro. Beh, insomma, il turnover si può come sempre vedere a destra o da sinistra. A me pare che l'altro anno il Napoli non abbia mai fatto turnover e non abbia mai ugualmente accusato incidenti, se non quelle piccole cose di routine che succedono. Ma insomma, non era certamente una squadra falcidiata da infortuni. Che lo staff, dal punto di vista della preparazione, sia di prim'ordine, lo dimostrano per l'appunto i numeri e i fatti. Io sinceramente su 7 giocatori, anzi 8 cambiati su 11 dalla domenica al mercoledì, non mi permetto di non cambiare idea. Credo che ci sia modo e modo di fare il turnover, che ciascuno ovviamente sia libero di valutare il quando e il come. Non dimenticherei, in ogni caso, tra un intervento vostro e l'altro, non dimenticherei il fatto che ci sono altre due squadre impegnate in Europa, un'Europa minore, certamente, ma non per questo non merita rispetto. E attenzione, non solo che rispetto, perché? Ma perché concorre anche l'Europa League a fare quorum, no? a fare ranking, a fare, insomma, a determinare poi quante squadre nostre ci sono, ci saranno in Europa. E allora le vigilie di Udinese e Lazio, la vigilia di Rei e Rocchi, la cui trasferta sul campo dello Sporting Lisbona è effettivamente di stasera, effettivamente di quelle molto impegnative. E pertanto hanno il compito di arginare, diciamo così, queste iniziative che avranno soprattutto all'inizio di gara, e poi cercare immediatamente di ribaltare l'azione, perché non possiamo rimanere in attesa del loro gioco. Noi abbiamo un nostro modo di giocare e vedremo di iniziare bene. L'affronteremo a viso aperto, sapendo che possiamo e che siamo venuti qui a fare il risultato, non certo a stare qui a far passare la partita, ecco. Quindi per prima cosa è quello, la volontà e il desiderio di andare avanti, di giocare ogni partita per fare il risultato. Prima della vigilia udinese, un altro ascoltatore, Stefano da Torino, buongiorno. Buongiorno Garanzini, vi chiedo scusa per l'emozione. Anche io, lei? Oggi è un giorno... È emozionante. Mi riferisco a esattamente una settimana fa, quando Tavelli le ha dato una lista delle squadre allenate da Mourinho, che puntualmente, dopo che lui va via, cambiano 3 allenatori: Porto, Chelsea e Inter. Sì, sì. Perché, fatto una considerazione, probabilmente riesce ad inculcare bene nei giocatori che allena i suoi metodi, i suoi modi, il suo spirito, che forse poi dopo gli altri allenatori hanno delle difficoltà a liberare i giocatori dai metodi di Mourinho. Può essere. Mi sembra che Benitez non è poi tanto stupido, ecco. No, anzi, tutt'altro. Ha avuto un incidente di percorso brutto in carriera con l'Inter, ma insomma, mi sembra un signor allenatore sul quale io personalmente continuerei certamente ad investire, anche perché nel frattempo si sarà fatto un pochino più avveduto, no? E si fiderà un po' meno di promesse da marinaio. Io credo che questi siano i meriti delle gestioni murignane, e ci sia anche in questo il fatto che trattasi indubbiamente di strizzacervelli, no? questo soggetto, per cui di quelli che quando cervelli, e non solo strizzacervelli, e strizza credo energie, muscoli, tutto quello che è possibile, per cui questi tirano fuoco, questi buttano il sangue, come si dice come si dice così, con un'espressione abbastanza felice, secondo me abbastanza significativa in questo caso, buttano il sangue, e poi non è facilissimo ricostituirlo per essere pronti a ripartire, non tanto perché è un'altra guida, ma perché era un tipo di coinvolgimento totale che prosciuga e che quindi rende probabilmente, non so se indispensabile, ma forse sì, una fase poi interlocutoria, una fase intermedia, una fase di recupero, di ripristino, va a sapere che cosa. Andiamo adesso a Glasgow invece per la vigilia dell'Udinese, atteso stasera dal Celtic. ho dei giocatori molto stanchi, quindi non è una scelta, è una necessità. Io quello che percepiscono in Italia, cioè, francamente, non è per me la cosa più importante, nel senso che io so che ho fatto una scelta logica, è una scelta ben ponderata, tenendo a questa manifestazione, ma dovendo considerare anche delle oggettive, facendo delle oggettive valutazioni sul piano proprio fisico. Cioè Totò, che è l'unica punta che ho a disposizione da un mese a questa parte, e non posso rischiare che si faccia male anche lui, quindi tanto per parlare di Totò. E questa è la vigilia dei friulani e di Guidolin in particolare. Piero da Cassano Magnago scrive: il motivo dei pochi infortuni potrebbe essere il clima mite che c'è nel mezzogiorno, ma questo credo proprio che aiuti, non c'è dubbio. Lo scorso anno il Napoli, scrive Dario, la Napoli fece turnover in tutte le partite di Europa League con i vari cribari, Vitale eccetera. È verissimo, però non fece mai un turnover di 7 uomini in campionato, credo proprio di non ricordarlo. Luca, chiamato da Siena, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini e complimenti. Senta, le fo due domande, due quesiti. Io avrei due proposte da fare. Dunque, la prima sarebbe per quanto riguarda la Coppa Italia. E io, secondo me, avrebbe molto più interesse, ma anche negli altri stati, tipo la Coppa del Re in Spagna oppure quella lì in Inghilterra, uguale. Chi vince la Coppa Italia come regola entra direttamente in Champions nel posto della terza, quindi la renderemo molto più, diciamo, da qualche parte lo si fa. E poi l'ultima cosa, se è d'accordo, a livello però globale, perché qui siccome c'è una crisi spaventosa in tutto il mondo, quindi penso potrebbe essere una cosa globale, quindi nessuno poi avrebbe l'ambizione di andare da un altro club perché guadagna di più. Mettere un tetto, perché mettiamo 2 milioni di euro sono più che sufficienti per fare una vita dignitosa per il resto della vita, dignitosa, quindi 2 milioni di tetto. Bisogna sentire Tarantini, perché mi pare che ultimamente sia un buon riferimento lui per la vita, a proposito di statisti, per insomma il decoro di una vita familiare, insomma di un menage. Però effettivamente 2 milioni di euro io penso che ci si potrebbe campare decentemente, e quindi lei dice un tetto ai cosiddetti emolumenti. Bisogna mettere d'accordo i presidenti di tutto il mondo, bisogna mettere d'accordo, non so, questi, a parte il fatto che già in Italia credo sarebbe ampiamente impossibile, ma bisogna mettere d'accordo questi nuovi magnati, questo che ha dato 20 milioni a Eto'o, non so, per dire, no? Passando per quello del Manchester City, per quello del Paris Saint-Germain, e credo che l'elenco potrebbe continuare. Tra l'altro Lanzini, questa squadra di Eto'o, ha appena sostituito l'allenatore, che è diventato Roberto Carlos. Non credo sia un caso di omonimia, immagino che sia il grande terzino, denuncia subito l'anagrafe, ma insomma il grande esterno sinistro che passò come una meteora nell'Inter e che fu poi leggermente più capito per esempio in una squadretta che si chiama Real Madrid, oltre che nella nazionale brasiliana. Credo che siano impegnativi come discorsi quelli che lei fa. Qualche altra curiosità di Coppa e poi voltiamo pagina dopo l'intervallo e passiamo al campionato. Per esempio, ma non solo di Coppa, la stagione di Messi è partita con 14 gol sino ad ora tra campionato e Coppa dei Campioni, e finora nelle ultime stagioni era sempre stata 8, 10, e adesso addirittura è salita a 14. Kakà non segnava in Champions League da 2 anni, dal 30 settembre 2009, e su rigore tra l'altro, invece l'altra sera ha segnato un bellissimo gol su azione. Ballack non segnava da 3 anni, e il Trabzonspor, l'Apoel Nicosia e il Basilea in testa ai loro gironi. Beh, insomma, comunque direi che fanno notizia, a 6 più di Bayern Monaco, Real Madrid e Marsiglia, sino a qui non sono imbattuti, ma che hanno fatto l'Amplein. Si diceva che la seconda giornata, anzi serata, doppia serata di Coppa può andare in archivio, torna il campionato e come se torna, sia pure per una giornata sola, nel senso che poi c'è la sosta internazionale per le due partite platoniche ormai dell'Italia. Ma insomma torna con due confronti al vertice, come Inter-Napoli sabato sera e come Juventus-Milan la sera di domenica. Con questa curiosità, che insomma non è inedita in questi ultimi anni, però comunque fa sempre sensazione, che noi di Milan, Inter, Napoli sappiamo praticamente tutto, perché giocano in Coppa, le segui costantemente, quindi sai per esempio che il Napoli, che al Napoli la vittoria col Villarreale è costato Cavani, che l'Inter ha problemi di recupero per Pazzini anche se sembra che le condizioni siano migliorate, che nel Milan è rientrato Ibrahimovic e notizie di stamane potrebbe recuperare anche Boateng per Torino, mentre la Juventus viaggia a fari spenti. Ora ne farebbe a meno volentieri evidentemente, però da un altro punto di vista può preparare con più calma il suo rilancio al vertice, insomma, da perseguire in ogni modo. E allora con il, insomma, la persona più competente di cose juventine che ci sia a Sky Sport, e cioè con Federico Ferri, io vorrei sentire un po' quali sono le novità di settimana della Juventus. Buongiorno Federico. Buongiorno, ti ringrazio per il competente. Beh, insomma, competente, informato, documentato, sicuro. Cioè ogni volta che si collegano con Torino per cose bianconere, mi sembra di capire che poco sfugge al tuo setaccio. Troppo gentile. Vabbè. Allora. No, guarda, il discorso che hai fatto sui fari spenti e sul vantaggio pur non voluto di non giocare le coppe, soprattutto nella settimana in cui poi si arriva una partita così importante come quella di domenica contro una squadra che invece le coppe le ha giocate, è sicuramente un elemento da sfruttare per Conte. Da questo punto di vista, non aver centrato l'Europa League l'anno scorso, visto anche il modo poco onorevole con cui era stata affrontata l'anno prima, è sicuramente un vantaggio per la Juventus. Pensa a cosa avrebbe potuto capitare, cosa sarebbe accaduto se la Juventus avesse dovuto giocare questa sera, ad esempio, per poi affrontare il Milan domenica. Certo. Di sicuro c'è un vantaggio. E adesso quindi si tratta questo vantaggio di metterlo a frutto. Come seguendo un po' la Juventus in settimana, come pensi possa averlo sfruttato? Perché io credo questo, che il Milan ieri sera non abbia avuto questo grande straordinario dispendio energetico, però è anche vero che con tutti gli infortuni che ha, insomma, si è aggiunto altro logorio, gente per esempio poi là con gli anni come Seedorf. Il recupero, il fatto che Ibrahim ha giocato tutta la partita invece è certamente positivo, perché vuol dire che ha tolto un po' di ruggini dalla sosta lunga. La Juve immagino che la vorrà mettere sul ritmo il più possibile. Sì, su alzare il ritmo rispetto a quanto è accaduto nelle ultime due partite. Conte è uno che la scorsa settimana e anche questa, per quanto ho potuto capire, è stato molto critico, molto più di quanto non lo sia stato ai microfoni pubblicamente, nel post partita, con i giocatori, in particolare con la difesa questa volta, non solo con Chiellini, dico con la difesa, e invece dopo la partita contro il Bologna, in particolar modo con Vucinic per quello che aveva fatto, per l'espulsione. Sta adottando un metodo, una terapia d'urto Conte nei confronti della Juventus, su questo non c'è dubbio, viene seguito dalla squadra, non soltanto dai più giovani ma anche da chi ha giocato con lui in precedenza, e quindi in questo momento il sistema sta funzionando. Si è arrivati però alla partita che secondo me può segnare un po' la stagione di questa Juventus, perché una grande prestazione secondo me darebbe davvero una svolta. La Juventus ha bisogno della grande partita, ha bisogno da due anni più o meno di una grande partita. Di una grande partita contro una grande squadra, certo. Esatto. C'è ancora, ti dico, l'elemento stadio è ancora un fattore che conta, perché la squadra sente l'entusiasmo di giocare in quello stadio e lo sentono quelli che hanno vissuto anche la Serie B, hanno vissuto stadi meno caldi e soprattutto hanno vissuto Torino in altre esperienze, parlo di Buffon, parlo di Del Piero. Adesso la voglia di giocare lì partite così importanti può essere un fattore, però ti dicevo prima, Conte in questo momento è ascoltato e non sta risparmiando critiche. Ad esempio questa settimana a me risulta un Chiellini non criticato ma messo di fronte ai suoi errori, soprattutto alle critiche subite, per poter avere una risposta sul campo e nella partita che in questi anni ha sempre vinto lui, cioè quella contro Ibrahimovic. Io credo che non verrà spostato a sinistra come qualcuno come potrebbe anche aver pensato Conte, non credo che lo farà nel giorno del, di quello che per Chiellini è lo scontro diretto, cioè quello con Ibra, no? Fin dai tempi del ritorno dalla Serie B, lui ha questo come scontro diretto e l'ha quasi sempre vinto. Per il momento si continuerà con questa soluzione, però so che insomma ha cercato Conte di stimolarlo anche facendogli leggere, facendogli vedere le critiche subite, devo dire ha ragione dopo, dopo le partite precedenti. Io continuo a pensare che non sia Chiellini il problema della Juve, ma sia la difesa, considerando che i tre quarti è la stessa dell'anno scorso. Sì. Da lì in avanti, e cioè da, da, dalla difesa in su, da, da metà campo in avanti, che scelte, a che scelte pensi tu in vista di una partita come quella con il Milan, che hai detto giustamente, cioè è un po' la cartina di tornasole della stagione, no? Perché se, se la Juventus vince questa partita, allora si, si convince di un po' di più, se non altro, di potersela giocare. È Pirlo più altri 10 la scelta di Conte per questa partita, e da questo punto di vista non giocare le coppe è davvero fondamentale, perché io credo che un giocatore come Pirlo, come Del Piero, in particolar modo Pirlo, ma ripeto anche Del Piero, penso per questa partita non potranno che giovare dei 7 giorni, dei 6 giorni di preparazione tra una partita e l'altra. Anche questo conterà nelle scelte. Vucinic torna sicuramente in attacco, ho qualche dubbio su chi lo affiancherà, ma ripeto, credo che Del Piero sia quello in vantaggio in questo momento, anche perché è il giocatore che finora ha giocato meglio con Vucinic. Vucinic cerca Del Piero mentre non cerca Matri, in queste partite è stato così finora. Sì. Quindi penso che per una serie di fattori Del Piero possa essere favorito. Credo che giocherà ancora Marchisio con Pirlo a centrocampo, dunque Vidal fuori almeno dall'inizio, e per le fasce si tornerà a, ai due che dovevano essere forse due rincalzi e invece stanno per questo inizio di stagione diventando giocatori fondamentali, ovvero Pepe e Giaccherini. Pepe perché è più in forma, Giaccherini perché è il più ordinato tatticamente in una squadra che secondo me in questo momento non si può permettere il disordine e l'anarchia tattica di Krasic e di un Elia ancora oggetto misterioso. Federico, ci hai dato la formazione praticamente, io non speravo tanto. Speriamo che sia giusta però, dobbiamo verificarla in settimana, però secondo me insomma è questo è l'orientamento. L'orientamento sia questo. Mancano 3 giorni, a 3 giorni data dal, dal big match, ripeto, sappiamo abbastanza tutto di quello che faranno gli allenatori delle altre tre, cioè di Milan, e Napoli e Inter, perché più o meno tra scelte obbligate, tra chi ha giocato in Coppa, tra chi ha riposato apposta, tra chi, insomma, qualche parametro ce l'abbiamo, i parametri della Juventus ce li hai dati tu e ti ringraziamo davvero. Grazie a te, ciao Gigi. Chiudiamo il collegamento con Sky Sport e con Federico Ferri. Poi magari verifichiamo, no? Domenica sera, lunedì, verifichiamo questa formazione, che però ha un senso, soprattutto queste scelte degli esterni. Mi sembra che sono una buona riflessione sulla base di quello che è successo nelle prime giornate in casa Juventus. Anche il fatto che il partner, che Vucinic, come ci ha detto Ferri, cerca con maggiore insistenza e con maggiore feeling, e cioè Del Piero. E quindi, come dire, la sollecitazione dei grandi giocatori in vista di un grande appuntamento. Tra poco torniamo con i vostri interventi. Io prima volevo ancora chiudere la panoramica dei commenti che abbiamo ascoltato, perché ed è quello di Allegri in particolare, perché è una proiezione già anche su Torino, visto che parla non solo di quello che è successo ieri sera, ma ne parla proprio in vista di Juventus-Milan. Ibra ha fatto un buon rientro, ha fatto una buona partita, sostenuta anche dalla squadra. È normale che Ibra in campo ti dà fisicità, ti dà qualità tecnica importante, è un punto di riferimento. E sono molto contento per la partita che ha fatto, visto che era un po' che non giocava. No, io credo che sia molto presto per dire che è una sfida decisiva per lo scudetto. La sfida è importante, loro hanno 3 punti di vantaggio rispetto a noi, però il campionato è talmente lungo che è impossibile dire che se dovessimo perdere siamo tagliati fuori lo scudetto. Questo è certamente vero, non può essere una partita o una doppia sfida come nel caso di sabato e domenica alla quinta giornata certamente a decidere un campionato. Diciamo che può orientare i cammini, i percorsi, può convincere, può destabilizzare, questo certamente sì. Inter-Napoli sarà diretta da Rocchi di Firenze e Juventus-Milan da Rizzoli di Bologna. Adesso abbiamo in linea Anello che ha chiamato da Pavia. Buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Garanzini. Dica. Sono un po' emozionato e avrei voluto un suo parere, perché ogni volta che vedo il Milan, anche la Formula 1, sono emozionato. Iniziamo bene e poi alla fine piano piano perdiamo l'intensità di gioco. È come la Formula 1, andiamo prima all'inizio come Alonso e poi piano piano le gomme finiscono. Il Milan dice? Sì, grazie, Milan. Ma guardi che ieri sera mi è sembrato il contrario, cioè mi è sembrato che siano stati i cechi a partire così, con una grande occasione subito e con un signor primo tempo, e poi invece finire sì, con qualche velleità finale, ma insomma quando la partita ormai era orientata. Io credo che il Milan sia stato fortunato, anche perché non... Sinceramente non tutti gli arbitri quel rigore lo danno a Ock. Poi è probabilmente più giusto darlo che non darlo, ma non è proprio un rigore da tutti. E devo dire che anche nella gestione disciplinare della partita, insomma, mi è sembrato un tantinello casalingo questo tedesco, che pure dicono essere uno degli arbitri emergenti di Germania. Sicché tutto meritato, tutto logico, tutto che ha avuto un senso, ma non che il Milan sia partito ventre a terra e che poi sia finito in riserva, mi pare almeno, perché semmai, cioè, non proprio ventre a terra, ma pericoloso. Tutto il primo tempo è stato di grande equilibrio ed è stato divertente, anche perché ci provavano sia gli uni che gli altri, ma io non so se nel primo tempo ho contato più palle gol per il Milan o per gli altri, anzi, se facciamo, forse se li mettiamo in fila, qualche riserva ce l'avrei sul fatto che ne abbia avute di più il Milan. Tra l'altro mi faceva notare Franco Piantanida prima che quando noi abbiamo dato quel frammento di Mancini dopo quell'Inter-Liverpool 2008, in cui fece il discorso appunto dell'addio alla panchina a fine stagione, che poi in realtà ci ripensò, non sarebbe stato un addio, ma nel frattempo fu la società a trasformarlo in addio e resta solo da resterebbe solo da chiarire se Mourinho era stato preso già prima di quell'Inter-Liverpool o se invece venne preso dopo quello sfogo di Mancini. Ma c'è una, appunto mi diceva Franco, una curiosità interessante, che anche quella sera ci fu un giocatore di Mancini che rifiutò di entrare in campo, che era Figo. Poi la fece in maniera meno plateale, diciamo pure meno sporca di Tevez, ma rifiutò a sua volta di entrare a partita compromessa. C'è Hassan da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno Gigi. Dica. La mia idea è questa, io sto pensando agli allenatori italiani. Io ritengo che sia un po' incredibile che tutto il mondo del calcio in Italia non pensa bene a questi allenatori. Basta vedere la classifica di oggi, anche i vari Maresani, Gasperini dell'anno scorso, cosa hanno fatto nel campionato. Continuano nostalgici di Mourinho, dei vari allenatori che vengono qui in Italia, secondo me fanno solo danni. Questo che volevo dire. Sì, adesso non mi sembra che sia una di quelle fasi in cui veniamo invasi, no? Cioè, io in questo momento mi chiederei se vale la pena riprendere tutti questi portieri, per esempio, che arrivano dall'estero, no? Perché e magari non cercare di valorizzare un po' di più i ragazzi di casa nostra. Ma di allenatori stranieri c'è stata un'epoca in cui questo poteva essere un tema. Adesso non mi sembra così attuale, e mi sembra tra l'altro che oltre a quelli che lei nomina ci siano non soltanto dei giovani emergenti, ma anche dei meno giovani collaudati che dimostrano di saper salire di categoria. Sto pensando a Sannino, per fare un nome attuale, no? Giuliano, provincia di Ravenna, buongiorno. Buongiorno, senta, grazie dell'opportunità che mi ha dato. Ma si immagina. Volevo farle due domande, una sul campionato. Sì. Siccome quest'anno c'è tre posizioni per arrivare in Coppa Campioni, no? C'è un outsider secondo lei quest'anno che potrebbe togliere uno di quei posti a queste squadre famose come no. Inter, Milan? No. No? No. E poi un'altra cosa, quella riguardante la Coppa dei Campioni, cioè le coppe in generale. Secondo il suo parere, ha visto, a prescindere dai Barcellona che sono extraterrestri, no? Lei ha visto qualche cosa di nuovo come tipologia di gioco che potrebbe diventare tipo l'Ajax del calcio totale e segnare una nuova epoca, oppure no? No, al momento no, sinceramente, Giuliano. Oddio, è un po' prestino perché la stagione è cominciata da poco, poi forse bisognerebbe perlustrare molto più in profondità di quanto non sia possibile fare così quando c'è una partita a sera e già non riesci a seguire tutto quello che tutto quello che è indispensabile per avere una documentazione, non dico minima, ma insomma una documentazione all'altezza. Però no, di così nuovo al momento rivoluzionario no, e ripeto, a fine settembre sarebbe in ogni caso un tantinello prematuro. Il discorso dell'outsider non credo, perché vorrei però così precisare meglio, perché non sarebbe un outsider Udinese o Lazio, ecco, in questo senso. Io credo che non sarà difficile uscire per le prime quattro piazze da Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Udinese, cioè io farei questa cosa. Poi la stessa Roma è difficile considerare un outsider, anche se quest'anno ha le caratteristiche. Ecco, mettiamola così, il massimo dell'outsider possibile quest'anno sono Roma e forse Fiorentina, ma già mi sembra che ci stiamo spingendo un tantinello oltre. Non credo ad altre possibili new entry così in alto in classifica. Pino ha chiamato da Brescia, buongiorno. Sì, Garanzini, buongiorno. Buongiorno. Sono d'accordo con lei sul fatto, di come diceva prima, che l'arbitro sulla partita di ieri sera col Milan sia stato, diciamo, un tantinello a favore, no? Però volevo tornare indietro circa una settimana e mezzo fa su un coso che non ho seguito poi sui giornali, un risvolto. Dato che ogni tanto si tira in ballo Sky Sport, finita la partita del Milan sul secondo pareggio che aveva fatto, il signor Mauro che si è permesso di dire Allegri quella famosa frase: mettiamo che settimana prossima il Milan dovesse perdere la partita, dice, cosa facciamo? Assistiamo a un altro esonero che lei se ne vada dal Milan? Non so se se l'ha seguita lei. No, Pino, io sinceramente queste cose me le risparmio. Non solo, lei ha detto una cosa adesso che... Lei ha appena detto quella famosa frase di Mauro, cioè io sinceramente famosa frase di Mauro, faccio fatica a mettere insieme questi due dati, questo non crede? Sui giornali non è spuntato assolutamente, cioè, nessuno. Allegri sicuramente questo, mette su, e questo forse potrebbe suggerirle qualcosa, no? Nel senso che esistono, come dire, le sentenze, no? Oppure esistono, e se no invece c'è la chiacchiera che fa parte della routine, quindi che poi lei a distanza di 10 giorni abbia, come dire, conservato in memoria questa famosa frase, io non so, torna a tutto merito appunto della sua memoria, ma le consiglierei anche, le suggerirei anche ogni tanto di resettare un tantino questo versante, questo côté commentario proprio così, routinier e di giornata, ho detto routinier e non bassa routinier. Dunque, mi stavo dimenticando niente meno che di Nicola Filippone. Allora c'è giusto il tempo di ascoltare che cosa ha scelto per giovedì 29 settembre. Sembra ieri. 29 settembre 1973. A San Siro la nazionale di Valcareggi batte 2-0 la Svezia in amichevole. Il primo gol è un colpo di testa in tuffo di Anastasi al 60°. 6 minuti dopo è il solito Gigi Riva a firmare il raddoppio, ribadendo in rete dopo che il portiere aveva respinto una conclusione di Anastasi. Il gol segnato alla Svezia è per Riva il numero 34 in maglia azzurra. L'attaccante del Cagliari supera così il mito Meazza, diventando il miglior marcatore di sempre della nazionale, primato che conserva tuttora con 35 gol. Mi segnala anche Nicola Filippone che il 29 settembre era nato anche un grande del calcio italiano come Silvio Piola, è nato un campione come Felice Gimondi, ed è un 29 settembre anche Andriy Shevchenko. Dunque, credo che siamo arrivati, sì, se guardo l'orologio, siamo davvero arrivati alla conclusione anche per oggi. E allora, un grazie a Mauro De Angeli in regia, a Franco Piantanide in redazione, e buon pomeriggio a tutti.